Ci rotoliamo sulla moquette e ci perdiamo nel frigo bar. Illuminiamo con la bajou i corridoi di questo motel. Sono un uomo disonesto, troppo fermo a causa dei letali. L'auto nascosta in fondo alla via è della ditta, non è mia. Io non ho niente, tu non sei mia. Non sei più bella nemmeno io. Ma ho calcolato che insieme a te potrò scordare anche un po' di me. Io leggo libri all'autogrill, cerco risposte anche nei film. Mi levo il peso dall'anima con una storia romantica. Ci perdiamo ogni tramonto nella nebbia che sale. Ballo da solo nel mio motel e mi confido col frigo bar. Tu sei restata là dove sei. Faccio uno shampoo nel mio motel. Dance in the residence.